Radio 24 Reportage. Il risveglio di Bruxelles, di Maura Bertanzoni. J'ai entendu bam, une explosion, mais ho sentito un boom. Era un'esplosione enorme. C'erano veramente molti feriti, molto panico. Tutti correvano di qua e di là. Io sto bene, ma ho soccorso molte persone. Molti non potevano muoversi. C'era una signora stesa a terra che sanguinava dal naso e anche dalla gamba sinistra. Le ho preso le due gambe e ho cercato di fermare l'emorragia. Sono veramente scioccato, perché ciò che ho visto è orribile. Veramente orribile. L'ho scampata. Due minuti in più e sarei stata lì. Ero nella hall delle partenze a fare il check-in. Siccome ho un cagnolino, mi hanno detto che non ero al desk giusto. Per questo mi sono spostata a un altro banco poco lontano. L'esplosione è stata proprio dove mi trovavo all'inizio. Cafeteria o un étage juste au-dessus du hall d'embarquement. Eravamo alla caffetteria proprio sopra gli imbarchi. La bomba è scoppiata a 20-30 metri da noi, ma eravamo protetti dagli ascensori. C'era fumo, non si vedeva nulla, c'era fumo dappertutto. Ero nella metro. Aveva appena iniziato a partire da Malbec quando c'è stata una grande esplosione. Tutti hanno capito subito che era una bomba. C'era uno spesso fumo marrone che riempiva il naso, gli occhi, tutto. Non si riusciva a vedere molto, ma potevo vedere la gente ferita correre fuori dalla metro. Nei primi momenti dopo lo scoppio delle bombe all'aeroporto di Zaventem e alla fermata del metro di Malbec a Bruxelles, lo shock fonde ragione ed emozioni. A Zaventem c'era Alphonse Yula, addetto ai bagagli, la prima esplosione a pochi metri dalla sua postazione. Quando esce dall'aeroporto, le mani sporche del sangue di tutti coloro che ha soccorso. Ma a Zaventem c'erano anche passeggeri come Anne o Joseph. 10 minuti in più o in meno, 20 o 30 metri di distanza dai banchi di accettazione, segnano la differenza tra la vita e la morte. A Malbec poi c'era Ulrike, solo una carrozza di distanza tra lei e il kamikaze Khalid El Bakraoui. Lo shock è inevitabile, c'è poca gente per le strade del centro nelle ore dopo gli attentati. Sui volti si legge tristezza, insicurezza. I media titolano l'orrore a Bruxelles sulle prime pagine del giorno dopo. Accanto agli aggiornamenti sulle indagini raccontano ora per ora una città scioccata che rifiuta però la paralisi completa. Gli ospedali sono i primi a reagire. Il dottor Mark Van Nuffelen, uno dei capi delle urgenze alla clinica di Erasmus, cerca con cura le parole e poi dice che sì, quella degli attentati è stata una giornata inumana. Lo sarà per tutti gli ospedali della città, dai più grandi, Saint-Pierre e Saint-Luc, alle cliniche più piccole, con tutti i dipendenti richiamati in servizio e la conta dei feriti, soprattutto gravi, sempre in aumento. Si cerca non solo di salvarli, ma soprattutto di dare loro un nome. All'ospedale militare di Nederhoven-Embeek, che accoglie i grandi ustionati e diventa il principale punto di informazione, si mescolano angosce e speranze. Mesdames et messieurs, aujourd'hui notre pays est en deuil. Pour chacun de nous, ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres. Face à la menace, nous continuerons à répondre ensemble, avec fermeté, avec calme et dignité. Per il re Filippo il 22 marzo è un giorno di lutto, un giorno che non sarà mai più come gli altri. Di fronte alla minaccia il suo appello a tutto il paese è per una risposta unita, ferma e di dignità. Bruxelles è ferita, ma rifiuta il lockdown, quella paralisi totale che invece era stata messa in atto appena dopo le stragi di Parigi, nella speranza di spazzare via gli autori di quegli attentati. La pioggia cade su Bruxelles, sopra i tetti, sulle case, sui lavori per le strade della vita, deviazioni assurde del destino. Così Giacomo Lariccia, cantautore italiano, racconta cos'è Bruxelles, la sua città. Una città che decide di non piegarsi e di reagire. Sì, le scuole si svuotano nelle ore subito dopo il doppio attentato, con i genitori che all'ingresso devono mostrare la carta d'identità per raccogliere i figli e nessun ragazzo può allontanarsi da solo. Poi l'annuncio, il giorno dopo si può tornare sui banchi, tutte le scuole restano aperte perché vogliono essere, dicono, luoghi di pace. Già mercoledì le serrande sono alzate in tutti i quartieri della capitale, da Ixelles a Saint-Gilles, da Woluwe a Jette, da Etterbeek a Evere. Si contano sulle dita di una mano le attività che si sono fermate. Qualche piscina è chiusa, qualche mercato settimanale è sospeso, ma nessun quartiere impone chiusure pesanti. Gli uffici funzionano, anche se in molti lavorano da casa. Il lockdown di novembre, dopo gli attentati di Parigi, era costato 350 milioni di euro, dice Confindustria belga, ma non è solo questione d'affari. Tenere aperto e rispondere al terrore con la normalità della vita quotidiana. Anche se il traffico è rado in centro, con le strade ancora parzialmente chiuse, bus e tram riprendono poco a poco il servizio e così pure la metropolitana. Anche le linee 1 e 5, quelle che passano Malbec, tornano attive con i bus a fare la spola per saltare il buco nero dell'esplosione. A Gare Centrale, la stazione centrale, e negli altri snodi ferroviari si entra da un ingresso solo. Polizia ed esercito controllano ogni borsa, c'è calca per uscire dalla città nella sera degli attacchi. I giorni successivi, però, mostrano una calma quasi irreale a chi comunque decide di raggiungere Bruxelles per lavoro. Sono arrivato da Bruges, era tutto molto tranquillo. Sul treno c'era circa il 20% delle persone che ci sono di solito. Anche in stazione era tutto molto tranquillo, ma molto inquietante con i soldati, la polizia e le telecamere in giro. Era tutto a posto, non c'era molta gente in treno e tutto era molto tranquillo. Non ho notato nulla fino a che siamo arrivati qui e ho visto l'esercito. Poca, pochissima gente anche in giro per Molenbeek, il quartiere con la fama più brutta, quella di essere origine e riparo di molti jihadisti. La Rue du Prado e la Chaussée des Gants, arterie dello shopping, sono deserte nelle ore dopo le stragi. Rabbia e sguardi sconsolati tra i negozianti. È una catastrofe per il quartiere, raccontano. Stavamo appena ricominciando a respirare dopo gli attentati di novembre. Tutti ora penseranno sempre a Molenbeek. Il sindaco Françoise Schepmans ammette che la fama del comune non è buona, ma che ora la priorità è smantellare la rete terrorista. L'inno belga risuona in Place de la Bourse. Candele, striscioni, fiori, messaggi scritti a terra con il gesso. I bruxellesi scelgono da subito questa piazza centralissima per esprimere la loro solidarietà. Vorrebbero far partire da qui la domenica pomeriggio quella che chiamano proprio una marcia contro la paura. Un corteo laico per non dimenticare, per dire che Bruxelles non vuole piegarsi, anche se alla fine la manifestazione non si farà per non sottrarre tempo e uomini alla polizia impegnata nelle indagini. Non una rinuncia, quindi, ma solo un rinvio. Siamo venuti qui in sei per le famiglie delle vittime, perché tutto questo ci ha toccato molto. Potevamo essere noi nel metro o a Zaventem a prendere un aereo. Noi per fortuna stiamo bene, ma la sorella di un mio amico era nel metro e non abbiamo notizie di lei da quel momento. Siamo molto tristi. Non ci aspettavamo davvero ciò che è successo a Bruxelles. Pensavamo potesse accadere altrove, ma non qui. Nathalie è una studentessa di 19 anni. Insieme ai suoi amici regge una bandiera belga. Ci hanno scritto sopra: ora brilleranno più stelle nel cielo di Bruxelles. Laurent invece sa che il suo messaggio scritto con il gesso scomparirà, ma non gli importa. Ho scritto: non ci avranno. Ai terroristi e a quelli che vogliono farci paura e farci vivere nell'inquietudine. In una società dove non si possa uscire tranquillamente, andare al ristorante, al mercato o a un concerto. Siamo feriti e siamo tristi e solidali con le famiglie delle vittime, ma continueremo a vivere. Sembra che ci sia una banda radicata qui, come altrove. Hanno voluto vendicare l'arresto di Salah. Speravamo di poter respirare alla fine. Eravamo contenti del suo arresto. E ci siamo detti: ok, ora la banda è morta. E invece non era così. E questo fa male. Solidarietà e rabbia si uniscono alla condanna ferma da tutta la comunità musulmana di Bruxelles, quella che è maggioranza silenziosa, quella che insieme a gente di ogni credo e di ogni dove ha disegnato il volto di una Bruxelles che non vuole arrendersi. Abito a Bruxelles da 35 anni e quindi mi sento bruxellese come tutti i miei concittadini. Il messaggio che voglio far passare è che Bruxelles, malgrado le lacrime, malgrado la tristezza, non si piega e resta unita contro il terrore. Diciamo a tutti che bisogna stare uniti, così il messaggio del terrore non passerà. È il messaggio della pace che vincerà alla fine. Ciò che accade non ha niente a che vedere con nessuna religione. Non c'è nessuna religione che tolleri tutto questo e che possa giustificare ciò che è accaduto. Tutte le religioni del mondo condannano nel modo più fermo questi atti terroristici. Nessuna ideologia o religione può accettare questa barbarie. In questa città che di tutti e di nessuno cerco me stesso e voglio il meglio dalla vita. In questa città che di tutti e di nessuno ho perso amici alla ricerca del futuro. Nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.